La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la storia e la memoria. Questa sera parleremo del Medioevo al cinema, ascolteremo il terzo radiodocumentario della serie I diari della cortina di ferro. Iniziamo subito con l'approfondimento di Dino Pesole. Il Medioevo e il cinema, un'attrazione fatale che per molti registi è stata irresistibile, come mostra la grande produzione di film su questo periodo della storia, dal celebre Braveheart, vincitore di 5 Oscar, al Nome della Rosa e poi ancora Le Crociate, Robin Hood, Excalibur, Tristano, Isotta e molti altri. Ultimo in ordine di tempo, il discusso film di Renzo Martinelli, Barbarossa, commissionato dalla Lega Nord per esaltare la figura di Alberto da Giussano. Al tema del Medioevo e del suo rapporto con il cinema è dedicata all'iniziativa Medioevo, parole e immagini, organizzata a Roma dall'Istituto Storico Italiano per il Medioevo in collaborazione con Agiscuola. L'iniziativa è rivolta a studenti e insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado e punta a proporre una lettura del Medioevo attraverso l'integrazione di diversi media, cinema, lettura, critica storiografica, seguendo un percorso nei secoli compresi tra l'undicesimo e il XV secolo. L'organizzazione scientifica è di Luciana Della Fornace e Amedeo Feniello. Il 12 ottobre l'attenzione si è focalizzata sul famoso film di Mario Monicelli, Brancaleone alle Crociate, un film del 1970. Con lettura di testi a cura di Silvia Giuliano e Andrea Giuliano e il contributo storiografico di Franco Cardini. Gli altri film sono Francesco di Liliana Cavani, Il Decameron di Pierpaolo Pasolini, Il Mestiere delle Armi di Ermanno Olmi. Chiedete perdono allo Gran Papa Gregorio! Perdono! Gran Papa Gregorio! Lo vostro Papa dice: pappate, pappate senza tema, che forse i doni saranno più graditi allo santo cui furono destinati se si serviranno a satollare 8 cristiani affamati. Grazie, buon pastore! Non per ti contraddicere, pastore, ma perché dichi 8 se le genti dell'armata hanno 9? No. Perché quelli due piccioli hanno uno solo. Il Medioevo però non è solo l'epoca delle crociate o dei padri della Chiesa. Basta scorrere le pagine di un libro scritto da uno dei maggiori medievisti contemporanei, lo storico francese Jacques Le Goff, dal titolo Il cielo sceso in terra, le radici medievali dell'Europa, pubblicato dalla Terza, per trovare conferma che è proprio nel Medioevo che affondano le lontane origini del nostro continente. Ascoltiamo quanto scrive Le Goff. Nel Medioevo è apparsa per la prima volta l'Europa come realtà e come rappresentazione. Fu proprio questo il periodo decisivo per la nascita, l'infanzia e la giovinezza dell'Europa, anche se gli uomini di quei secoli non avevano l'obiettivo né la volontà di costruire un'Europa unita. Soltanto Pio II, Enea Silvio Piccolomini, papa dal 1458 al 1464, ha avuto un'idea chiara dell'Europa. Scrisse un testo intitolato Europa nel 1458, seguito da un'opera dal titolo Asia, nel 1461. Il Medioevo ha evidenziato e spesso addirittura fondato le caratteristiche reali o problematiche dell'Europa, l'intrecciarsi di un'unità potenziale con una diversità di fondo, il mescolarsi delle popolazioni, i contrasti e le opposizioni tra est e ovest e tra nord e sud, l'indeterminatezza della frontiera orientale, il primato unificante della cultura, fattori storici e rappresentazioni. La formazione di queste mentalità, di questo immaginario particolarmente vitale del Medioevo, è un carattere essenziale della genesi dell'Europa come realtà e come idea. Abbiamo in linea lo storico Franco Cardini, illustre medievista, che ha fornito il suo contributo storiografico all'iniziativa Medioevo, parole e immagini, che è in corso a Roma. Professore, grazie per aver accettato il nostro invito. Mi dica, Medioevo e cinema, noi abbiamo cercato un po' di presentarlo ai nostri ascoltatori, ma è un'attrazione fatale e non c'è anche un po' il rischio che attraverso il cinema e dunque attraverso la rappresentazione filmica arrivi un messaggio non del tutto corretto di quello che è stato poi il Medioevo, un periodo molto complesso, articolato? Non c'è solo il rischio. rischio è una realtà obiettiva, anche perché quando si fa un film a vari livelli in generale non si mira all'obiettività storica. Io devo ancora conoscere un regista, un soggettista che quando fanno un film su un qualunque argomento pensino alla vera e propria ricostruzione storica. Sì, ci sono stati film che effettivamente, programmaticamente, miravano a ricostruire, che so io per esempio, l'ultimo film sulla fine nel bunker di Hitler, quello proiettato alcuni mesi or sono, che creò anche una serie di polemiche. Quello aveva un'ambizione, direi in una certa misura anche coronata da successo, di essere un film che in qualche modo registrava l'esattezza storica, però sì. Bisogna dire che un film non è mai un documentario, e non conosco francamente nessun regista e nessun soggettista che quando hanno fatto un film sul Medioevo si siano posti come obiettivo primario la realtà storica. C'è una qualche riscoperta, comunque, al di là poi dell'aspetto relativo ai film e al cinema, c'è una riscoperta e una rinascita di interesse rispetto a questo periodo della storia, secondo lei? È dalla fine del Settecento che noi cosiddetti occidentali inseguiamo l'oggetto medioevo e ne facciamo prima in qualche caso un oggetto di condanna, il tempo del fanatismo, della barbarie, della superstizione, oppure al contrario un oggetto di lode e di nostalgia, il tempo della spontaneità, il tempo della fantasia. Sono due obiettivi polemici nati, il primo durante l'illuminismo, Voltaire per esempio, non solo, e il secondo durante il romanticismo, che poi hanno assunto vari aspetti anche rispetto, il discorso sarebbe lunghissimo naturalmente, ma anche certo, rispetto a certe ideologie politiche, e alla fine noi ci troviamo di fronte a un Medioevo stereotipato, a un Medioevo semplicizzato, a un Medioevo strumentalizzato, a un Medioevo deformato. Può anche servire, a questo punto torniamo al nostro ragionamento di partenza, seppur coi limiti che abbiamo prima identificato, anche il cinema in qualche modo, se serve, puoi aprire anche una discussione nelle scuole tra i ragazzi. Certamente, noi siamo in presenza di un testo, un film è un testo esattamente come un testo letterario, e quando i testi parlano di storia sono suscettibili evidentemente anche di essere criticati sulla base della loro fedeltà alla storia, e sono anche suscettibili di venire usati come punto di riferimento per chi fosse interessato alla storia, per capire quali sono le distanze tra la trasfigurazione filmica e la realtà obiettiva, e quindi tessere intorno a questo obiettivo di fondo un ragionamento critico, un ragionamento filologico, è quello che ha fatto Chiara Frugoni per San Francesco, è quello che faranno altri colleghi o stanno facendo altri colleghi nel nostro ciclo, è quello che ho cercato di fare io. Abbiamo preso volontariamente un film che in apparenza è una parodia del Medioevo, in realtà poi riprende certe cose in modo molto meno esatto di certi film fra virgolette seri, e ne abbiamo fatto il punto di riferimento per una serie di osservazioni storiche. La storia e la memoria. Ben ritrovati alla Storia e la Memoria. A poco più di 2 settimane dal 20° anniversario della caduta del muro di Berlino, questa settimana i diari della Cortina di Ferro ci fanno ascoltare la testimonianza dell'uomo che nel dicembre del 1989 contribuì a eliminare il regime di Ceausescu. Laszlo Tokes, il pastore calvinista che lottò per affermare i diritti della minoranza ungherese in Romania, diventò protagonista della rivolta nella città di Timișoara e in seguito eroe della futura rivoluzione che si espanse fino a Bucarest, arrivando a far crollare la dittatura comunista in tutta la Romania. Se Nicolae Ceaușescu non si fosse accanito con tanta ostinazione contro Laszlo Tokes, avrebbe avuto qualche chance in più di morire di morte naturale e non davanti a un plotone di esecuzione con sua moglie Elena in diretta televisiva il giorno di Natale del 1989. Con molte probabilità la tirannia si sarebbe prolungata ancora per mesi, o chi può dirlo, anche anni. Nel 1989 Tokes prestava i suoi uffici a Timișoara e insieme alla sua comunità ha resistito ai continui tentativi di epurazione comandati da Bucarest. Anche i vertici della sua chiesa, che avevano accolto la richiesta di espulsione di Tokes da Timișoara, gli erano contro. I was a priest in Temeșvar, in a Protestant church, an absolute minority church of Temeșvar, Timișoara. We were a tribal minority, a minority as a church and minority as an ethnic group, Hungarians and Reformed church members. Ero pastore a Timișoara. Nel 1989 la situazione in Romania era diventata insopportabile, non solo per la mia comunità considerata due volte minoranza, per motivi etnici e di religione. Mi resi conto che se non avessi parlato, se non mi fossi scagliato contro il regime, allora le pietre e le armi avrebbero parlato, come ci ha insegnato Gesù Cristo. Ho sentito la necessità e l'obbligo di scagliarmi contro il comunismo e il nazionalismo imposto dalla dittatura di Nicola Ceaușescu e sua moglie Elena. Stringeva tra le sue mani una copia della Bibbia. Si ripeteva che se non avesse parlato, presto lo avrebbero fatto le pietre e le armi. Proprio come predicava Gesù, contro le ingiustizie, così cominciò a fare anche lui. Aveva bisogno di preparare i suoi fedeli alla resistenza, di infondere a se stesso il coraggio necessario per scagliare parole di fuoco contro il regime di Ceaușescu e il nazionalismo romeno, che avevano stritolato i diritti della minoranza ungherese e religiosa nella morsa della repressione culturale. We, as Hungarian reformed people from Timișoara, felt the need and the obligation. Il 15 dicembre del 1989 migliaia di persone vennero a sostenermi, a proteggermi contro l'ordine di evacuazione che avevo ricevuto dalle autorità del regime. Ora, dopo ora, le persone intorno alla mia chiesa si moltiplicarono. Il pomeriggio la ribellione contro la decisione di rimuovermi da Timișoara si trasformò in una protesta generale contro il comunismo e contro il governo centrale di Bucarest. December 89, the people who came to support me against the evacuation. Il sindaco di Timișoara, sperando di riportare l'ordine in città, promise di revocare l'ordine di espulsione di Tokes. Ma quando le sue parole non seguirono i fatti, la rabbia della gente fu incontrollabile e Tokes diventò il simbolo, la prima pietra scagliata contro il mastodontico Palatul Parlamentului di Bucarest. Nei giorni seguenti le persone si radunarono sotto la sede del Partito Comunista, la rivolta si estese in tutta la Transilvania e ben presto raggiunse anche Bucarest. Honest Protestant churchman who could not resist. Non mi sono mai sentito un rivoluzionario. Sono un semplice uomo di chiesa onesto che non poteva resistere alle bugie del comunismo, all'oppressione che subiva la mia chiesa e la mia gente. Sono riuscito a convincere i miei fedeli a unirsi alla protesta. Noi, da soli, gente semplice, abbiamo affrontato le forze oscure del regime, la Securitate, la polizia segreta e anche i vertici della mia chiesa, che erano molto corrotti. Simple believers faced Il pericolo a cui aveva sottoposto la sua famiglia e quelli che si erano schierati al suo fianco era enorme. We were afraid of, but one is brave. Ma non potevamo rimanere in silenzio di fronte a questa situazione inumana e insopportabile. Avevamo paura, ma dovevamo superarla, non c'era altra scelta. Tokes camminava nervosamente su e giù nel suo studio, cercando conforto in quel Dio che gli aveva dato il coraggio di iniziare tutto ciò. Sentiva gli spari di arma da fuoco e si interrogava: era giusto quel che stava accadendo? Doveva arrendersi e consegnarsi agli uomini della Securitate? Ma no, non si poteva più tornare indietro. Tokes, l'uomo che sceglieva con attenzione le parole della Bibbia per mobilizzare la gente, non avrebbe mai immaginato di diventare un eroe. George Bush, Jimmy Carter, Giovanni Paolo II hanno voluto incontrarlo per dargli merito, ringraziarlo per la sua lotta contro il comunismo e il regime totalitario di Nicolae Ceaușescu. I was aware that my power is nothing comparing the power of the regime. Ogni ora che passava, la mia insicurezza aumentava, non sapevo cosa fare. Ero consapevole che stavamo sfidando il potere e le strutture di un regime che mantenevano stretta la morsa su tutto il paese. La mia forza era nulla di fronte a quella di Ceaușescu, ma in quel momento la provvidenza di Dio è intervenuta. È stato Lui a infondere a me e ai miei fedeli il coraggio di resistere. Quello è stato il punto di svolta. That made the turning point. Per Ceaușescu, che stava sottovalutando le manifestazioni di Timisoara, era cominciato il conto alla rovescia. La rivoluzione si diffondeva in Transilvania e avanzava inesorabile verso Bucarest. La televisione di Stato non dava nessuna notizia dei fatti di Timisoara. Nella capitale, le voci arrivavano attraverso le onde di Voice of America e Radio Free Europe. Il 20 dicembre il dittatore romeno rientrò a Bucarest, dopo due giorni di visita in Iran. L'indomani, il genio dei Carpazi, così come si autodefiniva, tenne il suo ultimo discorso, convinto di poter riprendere le file del comando. Dopo pochi minuti dall'inizio, arrivarono le contestazioni che non si sarebbe mai aspettato. Le telecamere, che come al solito trasmettevano in diretta le parole di Ceaușescu, staccarono sul cielo sopra la piazza per non mandare in onda l'imbarazzo del leader, che farfugliando proseguì fra interruzioni e silenzi la litania sul socialismo romeno. I suoi occhi erano puntati sulla parte destra della piazza, da dove i manifestanti facevano sentire il loro dissenso. Elena lo raggiunse sul balcone, guardando con sprezzo quella marea che osava ribellarsi al proprio padre. Da lì a qualche minuto la coppia di tiranni venne trasferita al sicuro in elicottero e il palazzo del Parlamento fu invaso dalla gente. La PS rivoluzionaria era quasi completa, il popolo aveva avuto il suo eroe in Tokes, i suoi martiri nei 72 morti di Timisoara e il trionfo sul tiranno. Mancava solo una cosa ancora: l'uscita di scena definitiva del genio e di sua moglie. Il finale, raggiunto di corsa, vide un processo sommario e un'esecuzione altrettanto rapida. Dopo soli 4 giorni, da quel 21 dicembre, veniva trasmessa in diretta TV prima la sentenza e poi la condanna. Oggi Laszlo Tokes continua a far tuonare la sua voce nella Chiesa riformata di Oradea e nel Parlamento europeo a Bruxelles. La lotta per affermare i diritti della minoranza ungherese in Romania non si è mai arrestata. Avete ascoltato la terza puntata del viaggio di avvicinamento all'anniversario della caduta del muro di Berlino, il 9 novembre 1989. Tokes, l'uomo che fece cadere Ceausescu. Nicola Sessa ha curato testi e sonori e la regia e il montaggio sono di Angelo Miotto.